In diretta dalla macelleria davanti casa va ora in onda Opencast Alpha. Hit snooze, just 5 more minutes please. You're such a sleepy head, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever. Stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Wait for me. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay. I'll be so warm here in your arms. So take a snapshot before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever. Stay, stay, stay. Scusate ragazzi, ma abbiamo la bocca piena di carne stasera. Detto così non è bello comunque. Come non è bello? Eh no, sì, tutto quello che ti sei mangiato. Senti, senti, senti. Sa sentire? Visto? Che schifo. Pensa un po'. Va bene. Opencast Alpha. Buonasera. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Siamo arrivati tardi questa volta, Siamo arrivati tardi. Tardi. Saranno passate svariate settimane dall'ultima volta. C'era traffico sulla 9. Vabbè, capita. Scusateci. Siamo tornati con delle notizie fichissime proprio. Abbiamo proprio. Ti vedo pronto. Il succulente dell'Open. Vogliamo anche dire che numero di puntata è? È la numero 37. Tipo, sì. 37. Tipo, aspetta, ho sparato a caso. Vado a controllare. 30. Vado a vedere. 30 mi ricordo. Sì, sì. Vado a vedere in archivio. Vai a vedere in archivio. 37. Ah, non sei sceso dalle scale? Sono già sceso dalle scale. Sei già sceso. Sì, sì. 37. Ah. Una puntata di Opencast particolare. Post-pasquale. Esatto, infatti siamo un po' appesantiti. Esatto. Una puntata di Opencast. Sì, siamo appesantiti dalla Pasqua. Dalla Pasqua e dalla puntata. Una puntata di Opencast anche post carnazza, come si stava dicendo. Diciamo, signori, stasera stiamo registrando con la panza piena. Veramente piena. Però cercheremo di portare a termine il nostro compito, che è quello di dire cazzate. No, scusa. Allietare questi vostri N minuti. Esatto. Con N maggiore di 30. Sì. Allietare e distruire. Sì, esatto. E distruire. Distruire. Esatto. Quindi direi di entrare subito sul pezzo. Sul pezzo. Sulle cose importanti. Dico subito. Vai. Firefox 20. Ok. E questa era la non notizia di oggi. Questa ma lo dovevo dire perché mi pagano. Era l'angolo della non notizia. Perché insomma hanno fatto un nuovo Firefox 20. Oltre alle comuni lavori, oltre ai comuni lavori di bug fixing, c'è un nuovo gestore di download praticamente inutile, hanno riscritto l'interfaccia, ma sostanzialmente stanno facendo la gara con Chrome perché è il numero più lungo. Cioè, mi piace più cifre. Commentare queste cose a te, perché tu sei critico su qualcosa, qualsiasi cosa diremo stasera. Ma non è vero. Abbiamo... Io non sono d'accordo su questa affermazione. Vedi, cioè, abbiamo l'ho detto. Abbiamo il critico, perché ci vuole sempre il critico, secondo me è importante in una trasmissione seria, sì. Che voglia dare. No, scusa. Seria. E che ci fa qua? Ma ti sembrerà un critico serio? Ah, ecco. No, perché noi vogliamo comunque dare un servizio completo. Almeno un aspetto. Esatto. Per cui stasera lui è qui per commentare questa notizia. Ecco. Lui ha già detto la sua su questa. Adesso ci dirà la sua su l'ultima. Tutte le altre. Ah, proprio tutte le tutte, vuoi? Tutte. Sì, no, ma voglio sentirlo criticare tutto, cacchio. Perché gli viene bene e critica tutto. E andiamo invece su cose serie. Serie. Allora, facciamo finta di essere seri. Allora, un tal Steve McIntyre, pagato da Linaro, si è messo a guardare tutti i sorgenti dei programmi presenti in Debian e Fedora per vedere la presenza di codice Assembler. Vedrete, chi glielo fa fare, a parte Linaro? Ma c'è ancora Assembler dentro? Quanto pare sì, e neanche poco, anche perché si è smazzato tipo 20.000 pacchetti, quindi smizza. Qualcosa doveva trovare per forza. Ma ha usato un grep, cosa ha fatto? Fondamentalmente tanta voglia, sì, comunque, ha usato un find e gli trovava tutti i pacchetti con estensione .s e poi man mano che li trovava andava a vedere cosa si trattava. Allora, cos'è che ha trovato? Allora, sostanzialmente ha trovato che c'era Assembler per tutti gli usi più disparati, cioè non lo so, su Nano. In Nano c'era Assembler? Non credo. Piu, meno male. Beh, se vi può interessare, stranamente il pacchetto che usava più Assembler in assoluto era il kernel di Linux. Questo non è una grande sorpresa. Cioè, vorrei un commento a caldo su questa cosa. Cioè, a quanto pare il pacchetto con più Assembler di tutti è il kernel di Linux. Ma il problema, secondo me, è che la gente non ha più voglia di scrivere in assembly. Cioè, bisognerebbe spingere per spronare le persone a scrivere ancora in codice a livello più basso, perché secondo me un netto riflesso della poca voglia della società odierna. Da parte di tutti i maintainer di pacchetti e soprattutto dei porter di Debian, che devono poi gestire questi programmi perché girino su una dozzina di architetture, non posso dirti cosa vorrei dirti perché siamo in radio. Sempre questione di ottimizzazione. Ma io mi chiedo ancora perché tu gli fai ste domande. Ma perché è divertente? Perché movimenta, capito? Masochismo. Esatto. Poi te lo spiego, Cosa movimenta. Cosa movimenta. Okay. Vabbè. Pensavo fosse la cena. Invece dopo il kernel, firmware e basta, no? No, realtà, per esempio, molti non ci pensano, ma anche il GCC contiene molto Assembler, perché molte funzionalità sono scritte direttamente col copia e incolla. Una cosa che ha scoperto, per esempio, che molto codice Assembler è esattamente lo stesso riportato in tanti programmi. Sì. Strano, gente che diceva, ma sicuramente sto pezzo di codice è scritto in Assembler, sarà più veloce, lo uso anch'io. E poi hanno scoperto che nella maggior parte dei casi no, era più lento della parte compilata, ma ormai erano decenni che le copiavano da un programma all'altro e... Diciamo che è come il discorso dei commenti su LibreOffice, su OpenOffice, sulle menate varie in tedesco. Esatto. Cioè? L'ultimo lavoro che i commenti in tedesco, l'ultimo lavoro che è stato fatto, il lavoro più grosso che è stato fatto su LibreOffice è stato eliminare i commenti in tedesco. Ma io pensavo che li mettevano perché dicevano ci sono già dei commenti in tedesco, saranno migliori, saranno allora, utili. Invece poi hanno scoperto che no. Esatto. Più che altro perché non li vedevano, perché più che altro che tedesco... dei commenti di una parola sola, però prendeva tre righe di testo. Queste cose un po' così. Va bene. Altre cose? Altre news? Succulente? Qualcosa di succulento proprio? Sarà successo qualcosa? Su cosa? Non lo so, per esempio, cosa? Io ipotizzo LibreOffice per Android. Bravo, continua a ipotizzare, vai, andiamo. Dai, che te l'ho fatto provare ieri sera. Siete riusciti ad aprire un file? Allora, sì, ma non con LibreOffice. Aprire un file. Noi abbiamo ottenuto una specie di schermata nera e no, cioè, la mia era bianca. Probabilmente era aperto perché il file era nero, però da lì è difficile. Si chiamava Santorini e c'erano sulle foto di Santorini con gli itinerari descritti. Però sì, era nero. Però dire gli itinerari di notte. Esatto. Ma no, probabilmente era il negativo di una foto scattata con troppa luce. Esatto. Ma perché continui a farlo parlare? Guarda, perché? Lascia stare. Ma perché non hai un bottone escludi lo stolto? Ma come sei critico? Se no, sei veramente critico. Comunque abbiamo raggiunto dei risultati, diciamo, non proprio... Vabbè, allora, l'icona l'ha messa. Allora, c'è stata l'installazione. Allora, perché è una pre-beta, ok? Di più, cioè una pre-alpha, anche prima dell'alpha. È in via così. C'è uno scrippettino che gira ogni notte, credo in America o dove cavolo, e crea questi pacchetti APK. Sì, ieri era cincinnati. Esatto, a cincinnati. Domani da un'altra parte. Ma prima o poi arriverà e ti ci manderà. E diciamo che ogni giorno ci sono questi due bei pacchettini da 60 mega da scaricare e da provare a installare. Per ora a me non ha formattato niente, quindi diciamo che è già qualcosa. Qualcosa fa. Ma no, allora, la schermata iniziale di selezione dei documenti... Dei file, è bello. Perché in realtà cosa fa? Ti crea una cartella che si chiama LibreOffice. Nella dove tua SD. Dove tu devi mettere dentro i file. Dopo, lanciando, ti fa vedere le icone. Le icone sono quelle giuste, eh? Cioè, quello punto ODT è di testo, eh? Cioè, fondamentalmente, da lì in poi però non funziona più niente. Ma fai fatica anche a chiuderlo, eh? Sì, diciamo che è un po' così. Però è stato un esperimento interessante. Sperimentatelo. Sì, no, ma comunque continueremo ogni tanto a scaricarlo, a vedere come. Giusto così, per curiosità, per tenervi anche aggiornati. Volevo solo far notare a chi ci sta ascoltando che la base stasera è cambiata rispetto al solito. Abbiamo messo un pezzo dei Como Lake Rovers, un gruppo che si è sciolto al caldo del sole del 2009, ma che rimane nei nostri cuori. E che rimane nei nostri cuori. Ma ci sarà un motivo se si è sciolto? Sì, sì, c'è. Diciamo che era, secondo me, era più il tempo che passavano a, come dire, degustare. Diciamo che si preparavano. Si preparavano. Però il pezzo è interessante, dai, è divertente. Li salutiamo. Votate, al massimo la cambiamo. Ma sì, anche no. Cioè, voi votate, noi poi facciamo quel colpo. Smettila, se no, cioè, capisci perché poi la gente non ci vota. In apertura abbiamo messo un pezzo di Grace Kelly, dal titolo Ready, Set, Stay. Mentre adesso invece vi facciamo ascoltare un altro bel pezzettino tranquillo di Woods dal titolo Lucky One. Il pezzo è quello fortunato. Bello, bello. Ti piace, lo so. Ci piace. Senti che basso. Dov'è? È basso. Aspetta che vuoi. I lit a candle, was talking all about our love. And then it fizzled out, I swear the wicked turned to smoke. I tried to light it back up myself, but it took the hands of someone else. There were days all I dreamt was a California shore. And everywhere I looked, oh Lord, you know I wanted more. But it wasn't you, babe. Even though I know that I am the lucky one inside your love, and I am the lucky one, the lucky one. You lift me up so much higher than I've been before. And I'm your red wine, was spilled upon a wooden floor. You got love that's slipping through the cracks. Is it something you even wanted back? I don't know how you could even try to blame yourself. Babe, this love we got, or only a fool would. would try to sell. You're my kind of beautiful. Nobody does it quite like you do. So I am the lucky one to be here inside your love. And I am the lucky one, the lucky one. We're gonna see this through. We're gonna work it out. We're gonna see this through, even if you kick me out. We're gonna see this through. We're gonna work it out, even if you run me through. Ciao, sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Up so much higher than I've been before, and any other girl would have punched me square in the jaw. But I'll be old and lonely someday. Will you be old and lonely with me? Old and lonely. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. E sei fortunato che ti ha detto questo, perché se ti dicevo io me medesimo quello che volevo dirti, hai capito. Allora, siamo tornati. Bella questa musica col bassetto qui. Fa molto spiaggia. Come siamo noi adesso. Ah, infatti c'ho tutta la sabbia nel costume. Non lo voglio sapere, non voglio entrare in dettagli, andiamo avanti con la prossima Possiamo notizia. Possiamo passare alla sezione problemi altrui. Problemi altrui, un po'. La sabbia. Sì. Questo è tutto un po' un problema. Spedora sta preparandosi per la nuova release e si sono accorti che il nome che hanno scelto per la prossima versione di Fedora dà problemi ai tool che prepareranno la release. Ma come dà problemi, scusami? Allora, il nome che hanno scelto è Schrödinger's Cat, con una O con umlaut e un apostrofo. E gli script di shell che preparano l'installer e tutto quanto soffrono. E quindi si sono posti il problema: ma dobbiamo rimandare la release per fixare i bug dei tool, o cambiamo il nome? Ma scusa, c'è la possibilità di mettere invece dei puntini e menate varie? Allora, ci sono state varie proposte. Una è che assomiglia a un apostrofo, ma non lo è. Esatto, quella è un parte della soluzione che hanno deciso di usare un carattere UTF-8, che qualcuno è un... si ricorda il codice di tale carattere? No. Che è un dire, tipo no, di apostrofo. Così coloro che ci ascoltano riescono a capire. Abbiamo la diapositiva, mi pare. Sì. Proiettatela per favore adesso. Ecco, questo qua è... Ecco, visto che effettivamente è un carattere che assomiglia a un apostrofo, ma non lo è. E questo risolve i problemi del quoting dei caratteri speciali, per il quale è stato deciso, no, non è cosa sistemarlo. Invece è stato deciso che i bug relativi ai caratteri UTF-8 verranno sistemati, perché... probabilmente se danno problemi col nome della release daranno problemi anche altrove, anche con altre cose, anche perché all'alba il 2013 secondo me. Allora lascia stare, esatto. Perché 14, io soffro 12, con questa cosa, che ogni cosa? Giorno dell'alba del 2013 anche. Perché lui non è ancora entrato nel 2000. Ma perché? Perché lui ha lo stesso problema, perché non usa tutto lo stesso codifica. Ho un grossissimo problema con queste cose, perché quando vai a lavorare su dei file di testo con dentro caratteri a cacchium, appunto, e poi non lo so, quello... tiri via colonne o roba del genere, e col RM ti dice qua c'è un carattere che non conosco. Cos'è questa roba? Il problema no, è che non è che va avanti. Tu pensa, io ormai in ufficio ho deciso di non accettare qualsiasi file di testo che non sia in UTF-8. Mi sembra giusto. Se mi arriva sbagliato dico no, adesso me lo converti. No, me lo riscrivono proprio a mano. Sì. bigliettini di carta che volano in esatto. giro. Esatto. Però i bigliettini di carta devono essere in UTF-8. Esatto, è così, perché sennò poi vengono fuori questi casini qua, cioè non esiste. Diteglielo alla signora IBM. La signora IBM. Diteglielo. Già che si parla di standard, c'è un'altra notizia. Esatto, visto che Microsoft ha comprato Skype e ha deciso di rimpiazzare Skype a MSN, la Free Software Foundation ha colto l'occasione per dire, visto che MSN adesso non c'è più, perché non usare dei protocolli liberi per chattare con i vostri amici? Allora, la proposta è interessante. Secondo me si poteva anche dire, a prescindere, perché non usare... Cioè, esatto. Devi aspettare che chiudano MSN. Diciamo che l'occasione della chiusura è l'occasione per lanciare una nuova campagna. Ma io quello che mi sono accorto, perché erano un po' di mesi, anni, che non vedevo più un client Skype su Windows. No, è inguardabile. È solo la pubblicità? Sì. È una cosa indecente. È una cosa assurda. Cioè, neanche la lista dei contatti ti è rimasta libera ancora un po'. No, è una cosa improponibile. Infatti, è veramente oscena. Attenzione, abbiamo un commento, perché l'uomo del commento vuole commentare questa cosa. No, ma il problema di Skype è il protocollo estremamente chiuso, nel senso che è stato praticamente... impossibile riuscire a capire come diavolo comunicava, e non si sono riusciti a scrivere applicazioni libere che comunicassero con tale protocollo. Il problema vero è quello. Ma perché effettivamente il protocollo di Skype è a cazzo. È una vera merda. Cioè non è che... Ogni 10 secondi decide cosa fare. Vorrei però ricordarvi che Microsoft ha... contribuito, sì, con una parte del codec audio che usa Skype, ha un codec, un nuovo codec che è stato sviluppato da XIF Foundation, che sono quelli che hanno sviluppato Vorbis, Theora, FLAC e tutti i formati di compressione audio-video aperto, per questo codec, di cui adesso mi sfugge il nome purtroppo. Lo chiameremo Giuseppe. No, non mi ricordo come si chiama, che è un codec che è molto interessante per applicazioni proprio anche di streaming. Attenzione, perché l'uomo dei commenti sta facendo dei disegni a penna sfera su carta assorbente. Attenzione, annunciamo la tua morte, signore. Attenzione, perché è un po' un gioco di società. Non capisco cosa scrive. Annunciamo, Friendica, il nostro nodo. Ne parleremo. E non ho visto la S. Snodo. Cos'è? Un'autostrada. Comunque, questo codec. Il nostro audio, svincolo. Questo codec audio con proprietà interessanti, perché riesce a passare tranquillamente. Perché da dove lo vedi, è una cagata. Il codec? No, proprietà. È bello, è bello. Cioè, vai a cercare la pagina, dopo metteremo il link su www.gl-com. È quella lì con quella scritta in blu. Sulla pagina dedicata alla puntata numero 37 di OpenCast. In che colore viene il link? Blu, no, e quello è scritto in blu. Sì. E comunque è un codec, diciamo, ad ampio raggio, nel senso che funziona sia a basso bitrate che ad alto bitrate in continuo, cioè l'encoder può cambiare in automatico. È bello, cioè, voglio dire. Ed è parte del progetto, del codice, diciamo, è stato fornito anche da Microsoft. Tanto per dire. Che bravi. È parte del codec exchange in Skype. Vabbè, ma Skype, la cosa bella, diciamo, che riesce a bucare qualunque route. Quello sì. Qualunque cosa, ti apre porte ovunque. È una cosa abbastanza caratteristica. Una sorta di virus alla fine. Un po' sì. Se lo conosci, lo eviti. Andiamo avanti a parlare di Free Software Foundation. Questa volta alla casa madre statunitense, che ha lanciato una campagna con una raccolta di firme per chiedere che lo standard HTML5 ufficiale non preveda una modalità di DRM. E sono d'accordo. Sei d'accordo? Direi di sì. Okay. Ci sarà poi il link sul sito. E rompiballe cosa dice? Completamente d'accordo. Ma lui viene a piovere, mo'. Allora ci dobbiamo preoccupare. Quello che io penso però che sarà una dura lotta, perché di mezzo c'è Adobe, c'è dietro c'è il Google, business, c'è Microsoft e tutti quanti. Cioè diciamo quelli che pagano. Infatti per questo parliamo, uno ci prova Apple. Ed è importante andare a firmare la campagna. Firmate anche voi la campagna. La campagna. Però con inchiostro non brucano l'erba. Biodegradabile. Non brucano grazie. L'erba. Perché se firmi le campagne con l'inchiostro indelebile, poi restano tutte le campagne sporche. Si inquina. Io la vado a fare il picnic e trovo tutte le campagne scritte. La tovaglia con le scritte. Esatto. I famosi writer di campagna. Esatto. Non è bello. Anima mia! Diciamo sì. Quelli non erano writer. Sì. Allora. Però, no, tu c'eri? Però erano di campagna. C'eri. Esatto. Allora, l'uomo qua del... Logo. L'uomo qua logo. A fianco. Logo roico. Logo. ci ricordava di annunciare una probabile, quasi sicura, installazione di un nodo FreeNDKit. Perché il GLCOM che cosa ha fatto? Ha cambiato il server su cui gira il fantastico sito. Vi ricordo www.gl-com. Quello che non funzionava mai sostanzialmente. Adesso funziona. Ok, ci siamo impegnati, abbiamo trasportato tutto, metteremo sul sito anche probabilmente delle guide. Il database è in Latin 1. A proposito di TF8. Vabbè, ma il database risale a qualche annetto fa, si può anche capire. E tra le varie cose vedremo anche di inserirci in questo social network. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi commentare? Sì. È stata un'idea lodevole quella di attivare un social network distribuito sul server del GLCOM. Tutti i tesserati potranno registrarsi e usufruire di tale servizio. Vi ricordo, registrati. Così almeno tesserati. Tesserati, registrati, smutandati. Ma qualcos'altro? La privacy dei tesserati viene tutelata? Certo. Fai un'altra domanda. Sì, certo. Domande, grazie. Ma se vi faccio una domanda, non mi rispondete con certo. Certo. Va bene. Sei troppo. Abbiamo avanti. Fatto dei corsi noi per queste cose. Abbiamo studiato. Andiamo. Cosa c'era nella cena? Cena aziendale si chiama. Prendi un collega e lo mangi. La cena c'era un tot di carne che adesso si fa sentire. Tot. Va bene, visto che la carne così era bella al sangue, andiamo con un pezzo un po' più grezzo. Un pelino, non troppo, non è quello lì, vero? No, un altro. Ah. Loro sono i Juice Big City, col brano 1, 2, 3. 4. No, 1, 2, 3. 4? No, 1, 2, 3. Vabbè. Yeah. Ciao, sono Rocco Semifreddi. Anche io ascolto Opencast Alfa. Alfa. Alfa. Baby, 1, 2, 3, 4, baby. È sempre bello quando una canzone finisce con baby. Mi sembra di essere un disc jockey. Mi sembra di essere un disc jockey, permetti? Grazie. E questi erano Juice Big City con 1, 2, 3. E questo è Opencast Alpha 4, 1, 2, 3. No, non c'era 4, 1, 2, 3. Io non capisco perché non mettono mai il 4. E non c'è, 1, 2, 3. Avevo capito che hai imparato a contare fino a 4. Sì, ho imparato 4, da solo, senza bigliettini né niente. Io arrivo al 5, poi, poi finisco le dita. Perché l'altra mano mi serve per contare. L'altra mano? Ma ti serve per contare. L'ultima volta ti sei perso. È vero. Va bene. Va bene, visto che avete questi problemi a contare, potrebbe esservi utile la distribuzione Skolle Linux, che è una variante di Debian. Scusa, per distribuzione? Skolle Linux è una non pervenuto. È scritto, scritto? Skolle Linux. Ah, ok. E gli sviluppatori del progetto Skolle Linux, che ricordo fanno parte ufficiale di Debian o di Linux, hanno appena fatto entrare nei repository un programma che invece si chiama Isenkram. Quello che si chiama X? È finito. Sì, no, Isenkram. Oh, scusate. Che serve. Serve per far sì che quando uno collega un dispositivo qualsiasi al computer, un dispositivo USB, il computer suggerisca. Sbronca. Il computer possa suggerire che pacchetti installare per usarlo. Ad esempio. Scusami, una sorta di plug and play con installazione automatica del software. Sì, però viene, c'è un avviso, cioè c'è un elenco di pacchetti da installare. Spero che sia un non consiglio è tutto, piuttosto. Esatto. Sì, ok, va bene. Non è tutto automatico. Per ok, però per dire hai io appena attaccato un vibratore. Cosa vuoi installare? Vibra, vibra. L'esempio. Scusa. Sì. Che programmi devi installare con quel? Cosa vuoi installare? Vuoi installare, che ne so, Vibra con un amico? KGeo, Kappa Vibra. Geometria, non so perché cosa vuoi. Poteva essere PornView. Oh, caspita, è vero. YouPorn download. Esatto. Non credo che però avesse un controllo di dispositivi esterni quello. Non era ancora. Era minimale con come calma, vedi la prossima versione. Con calma. Sta gente che aggiunge funzionalità. C'è quel casaccio lettore video col force feedback. Bene, e niente, l'uso che, per cui è stato proposto Isenkram è un po' più serio. Esagero. Il problema che avevano è stato proposto, poi bisogna vedere come lo usa. Sai, VHS, sai, il problema che avevano erano collegare i Lego Mindstorm al PC e sapere che cosa. Sì, sì, robe più serie. Certo, le Lego Mindstorms sono cose serie. Tipo, se attacco un Arduino, mi vuol far installare il lead di Arduino. Probabilmente bisognerebbe segnalargli. Se attacco una webcam, vuol farmi installarmi. Far installare lead della. No, lead della webcam. Cheese. Per dire. Sì, quella sarebbe una buona opzione. Interessante. Buono sto cioccolato. Buono sto cioccolato. No, tanto per rendervi partecipi del fatto che stiamo mangiando del cioccolato fondente. Fondente, fonduto. Di ottima qualità, direi. Dopo la carne. Vabbè, comunque no, è utile come cosa, perché questo, certo, devi avere l'USB che funziona. Sì, perché normalmente le distribuzioni moderne non hanno problemi a far funzionare l'USB. Se ci fosse la possibilità con la webcam, vedi, io dovrei installare questo. No, non funziona. Questo no. Probabilmente si può il fare. Scusa, con... lo puoi fare, però la webcam è un USB. No, maledizione. Va bene. Ah, ah, cercasi webcam seriali. Invece, a proposito di distribuzioni, c'è l'ultimo consiglio che Stallman rilascia al mondo. Stallman ha scritto. Ah, ok. Vedo che si prepara il critico a commentare. Dici, di la notizia che poi. Allora, Stallman ha scritto agli organizzatori di un festival dedicato al software libero, chiedendo per favore di non consigliare l'installazione di Ubuntu, non promuoverla, non distribuirla. Non solo per la solita questione del software proprietario presente, ma soprattutto per le feature che Ubuntu ha introdotto per la ricerca su internet, che possono dare dati personali a aziende di terze parti, un nome si sta a caso, di Amazon, un Amazon a caso. In questo caso specifico, tu che sei uno che usa molto Amazon. Sì, sì, esatto. Io che ho cercato por il mio file che è por, è venuto fuori porri. Esatto. E che effettivamente Stallman dice: abbiamo sempre detto che il software libero non ha feature pensate per andare contro l'interesse dell'utente, e questo invece è un caso di software che è libero ma è evidentemente contrario agli interessi dell'utente. Quindi, il nostro personale grande capo, la notizia è questa. Stallman chiede per favore, tra l'altro, di non consigliare Ubuntu per appunto queste funzioni di tracciamento potenziali. Io mi trovo d'accordo con Stallman in quanto Ubuntu sta diventando uno spyware più che una distribuzione di software libero adatta alla neutenza. Anzi, probabilmente è veramente adatta alla neutenza che usa Facebook, ma questo non è un buon motivo per incentivare ed incoraggiare questo modo di fare le cose. Bene, grazie, grazie, il nostro opinionista. Io mi chiedo ancora perché. Tu sei quello sempre che usa Gentoo e non riesce a far andare l'USB, ricordiamolo. Altri usano distribuzioni come Debian dove l'USB funziona. Non mi fido. Non e mi fido. Dove c'è una comunità dietro che ha come primo interesse l'interesse dell'utente. Allora, anche perché gli utenti, cioè diciamo gli sviluppatori, che sono utenti. Diciamo che come cosa Ubuntu, cioè, ha diritto di esistere. Certo, la comunità è spaccata sulla sua struttura, per il semplice fatto che va bene, ci sta, per carità, che Ubuntu come società ha delle spese menate varie, ma da qui a mettere pubblicità ovunque, esatto, a cercare di venderti pacchetti software e roba del genere, ne passa su un software libero, cioè c'è proprio una cosa, è un abisso. E in effetti c'è una parte significativa della comunità Ubuntu che sta riconsiderando un po' se veramente Ubuntu abbia ancora una comunità dietro o se sia una. Ma ovviamente attenzione, qui, cioè, si vede la differenza tra la gestione di una comunità e la gestione di un'azienda. È ovvio che l'azienda prima o poi deve avere un riscontro economico, ed è ovvio che dall'utenza desktop non si ricava niente di economico, quindi in un modo o nell'altro bisogna trovare qualcosa, mentre se si prende una comunità tipo quella di Debian è evidente che si è più portati nel tutelare la libertà dell'utenza piuttosto che trovare del profitto. Giusto. perché ci sono già dei gadget, non lo so, vogliamo ricordare le penne, le tazze, i sottomouse, i coltellini svizzeri. Non sono svizzeri, sono Debian. Debian fa i coltellini svizzeri Debian. Non sono svizzeri. I tanga. Sono i tanga. Poi fa. Ma a questo proposito, non di tanga, ma di Ero preparato. È tutta la settimana che mi preparo sui tanga. Dopo ti do la possibilità di parlare di tanga. Oh. Appena tu chiudi il microfono. Ma Debian è chi. Gli sviluppatori Debian hanno i kilt. Il tanga non gli serve. No. Però vedi che. Vabbè, comunque andiamo a vedere. Vediamo. A proposito, che cosa dice DistroWatch sull'argomento, per cui su quale argomento? Sull'argomento appunto, questa cosa che Ubuntu sta perdendo quanto pare il favore della comunità e degli utenti. Perde colpi. Andiamo a vedere la top 10 di DistroWatch. E come facciamo? Ci manca allora, Geppo. E non c'è Geppo perché è in Giappo. Che salutiamo perché. Ma Giappo o Geppo? Tutti e due. Ok. Però faremo quello che possiamo con quello che abbiamo. Ok. Quindi mi dispiace per voi che avete noi. Esatto. La top 10, in questo caso partiremo dal decimo posto. Al decimo posto c'è Zorin, che è una distribuzione veramente interessante, mai vista prima. Basata su Debian, anche questa, con... il LXDE. No, è LXDE. Se c'è scritto LXDE. C'è scritto lì. Vedi. Ok, non era KDE, è LXDE. Comunque è al decimo posto, per cui voglio dire, un po' come diceva... non so se avete visto il... Manzani. Lo scherzo del primo di aprile che hanno fatto su DistroWatch, dove si lanciava l'idea di ridurre il database di DistroWatch praticamente alle prime 5 in classifica o prime 10 in classifica, perché tanto le altre sono sconosciute e non gliene frega niente nessuno, ma torneremo su questo punto dopo. Al nono posto c'è Puppy Linux, la distribuzione diciamo leggera per computer di una certa età, con un hardware datato. Pensionati. Esatto. Le ultime versioni usano pacchetti deb. Ecco. Dagli il microfono perché fa commenti e non si sente. Vabbè, ma c'è un motivo. No, ma dopo sembra che parlo da solo. Appunto. All'ottavo posto c'è PC Linux OS. Una distribuzione che anche questa se ne sente parlare ultimamente, non poco, ma... tra l'altro una distribuzione originariamente basata su Mandriva, da cui poi ha preso le distanze. Si presenta con... è una classica distro, quella da desktop, che puoi fare quello che vuoi, per cui è un'ampia scelta di desktop tra cui scegliere. Al settimo posto in salita abbiamo Arch Linux. La distribuzione per chi sa dove mettere le mani e non c'ha voglia di sbattersi troppo per far funzionare l'USB. Al sesto posto. E soprattutto ci tiene all'ambiente, al riscaldamento globale. Esatto. E alla bolletta della corrente. Al sesto posto, sempre in salita, OpenSUSE, che sta guadagnando dei posti, dei punti, diciamo. Mentre scende Debian. Purtroppo si sta aspettando che finisca questa freeze prolungata, per cui non ci sono... Deve uscire la 7 adesso. E deve uscire, è ora che esca, si sta prolungando l'agonia della freeze. Giuseppe. Wheezy. Stabile al quarto posto Fedora, mentre al terzo posto, quindi stabile dall'ultima volta, non so, mi ricordo l'ultima volta che abbia fatto la classifica di DistroWatch, ma stabile nella classifica continuamente aggiornata di DistroWatch, Ubuntu, che comunque vi ricordo che fino a non molto tempo fa era prima, se non seconda in classifica. È stata scavalcata al secondo posto da Mageia. Attenzione, Mageia. Tu vuoi dire qualcosa su Mageia? C'è la faccia di quello che vuol dire qualcosa su Mageia? Usa gli RPM, il male. Tu l'hai chiamato, È peggio di un virus. Vabbè, esatto. Al primo posto in classifica su DistroWatch, anche per questa volta, Mint. Bello, però bisognerebbe capire quale versione di Mint. E questo non te lo dice perché Mint fa Ubuntu, versione Ubuntu. No, pare stia diciamo prendendo piede la versione basata su Debian. Sì, comunque essere... meglio la Mint basata su Ubuntu che Ubuntu. Effettivamente sì, già solo perché non c'è Unity, perché Unity è... Satana. Ok. Ma adesso andiamo a cercare per farci un po', diciamo... No, dai, di la verità che hai modificato la... la top 10 per tirarla via apposta. Hai modificato la pagina sul www. Aspetta. Ha pagato degli hacker russi. Aspetta. Ne sono convinto. Aspetta. Andiamo a cercare Gentoo. Allora, abbiamo detto al decimo posto Zorin. Io scendo cercando Gentoo. Allora, Gentoo, Snow Linux, Mangiaro, Slackware, Solo, Sans Body, Linux Crunch. Scusa, hai detto che Slackware è più in alto di Gentoo? Slackware è al 14, sì, al 14 posto. In discesa, ma è al 14 posto. Io non ho mica capito. Body Linux al 17 posto in salita, la distribuzione. Merita. Ricordiamo basata su, non so, Sarcasso, Debian, mi sembra. So che ha dentro. Comunque la caratteristica fondamentale è che usa Enlightenment 17 come 17, testo, sì. E 17 come testo. E c'è la versione anche per ARM. Esatto, sì, esistono versioni per Raspberry. Per Raspberry e per Efica. Altra cosa, Efica è tornato dopo. Continuiamo noi perché dobbiamo continuare nella classifica. Allora, ma quindi la Slax al 21 posto. Ma non hai nient'altro da dire. Rosa, Chakra, Litre, non è tardi, si è fatta una certa. PR. No, ma continuiamo a vedere. Aspetta. Ma non vogliamo andare. Ubuntu, Subuntu, Ultimate. Gentoo al 33 posto, stabile. Perché? Adesso. No, è stabile. Stai sbagliando riga. È stabile al 33 posto. Per cui è così. Caroli. Dietro Gentoo rimangono soltanto cose tipo Red Hat, Bandriva che ormai non esiste, cose sconosciute, che veramente carogne. Cioè veramente. Ma solo perché noi non usiamo Uber Student, un'altra bella distribuzione che però è in salita secondo me. VatOS, beh, va bene. Comunque sei al 33 posto, Gentoo, stabile, mantiene la posizione. Ma perché la gente non capisce? Porta alta la bandiera. No, ma poi teniamo conto che esistono centinaia e centinaia di distribuzioni. 33 posto, anche quello è vero. Non è così non male. È così male. Windows, certo. Sarà più indietro. Certo, è difficile entrare nella top 10. Super OS. Ma poi c'è anche, cos'è, Batman OS? No, BatOS. Super OS, vabbè, giusto perché il nostro commentatore qui l'ha trovata al 99 posto. Super OS è una volta chiamata Super Ubuntu, una versione... Sì, è una versione modificata di Ubuntu. Che ci voleva. Il cui scopo è quello di renderla più usabile. In particolare per gli utenti senza una connessione a internet. Quindi non fa le ricerche di Amazon, esatto. Ti scarica tutto il database dagli articoli locale. Quelli per cui esistono i DVD di Debian, insomma. Fondamentalmente immagino che nell'installazione mettano tutto quello che può essere utile e chi si è visto si è visto. Va bene, e con questo direi che chiudiamo l'angolo di Strowatch. Salutiamo ancora una volta. E te è inutile che spezzi di entrare in top 10. Io non ho capito. Ma io modificherò quella pagina, certo. Prima o poi. Salutiamo gli amici gentuisti che ci seguono. Ciao. Salutiamo Geppo che è in Giappone. Ciao Geppo dal Giappone. Esatto. E niente, alla prossima settimana con l'angolo di Distrowatch. Invece volevi dire una cosa interessante su... No, non la dico più. Su Efica. Non la dico più. Va bene, la diciamo noi. Carogne. Allora, Efica, portatile. Portatilino basato su ARM, di cui vi abbiamo già parlato diverse volte durante Opencast. Diciamo che è un portatilino uscito nel 2010 con un ARM Freescale MX51. MX51. 5-1 51 si dice, diciamo, come ti dico. E da 800 MHz che spaccava il culo ai passeri, diciamo. Era una bella macchinettina. Però gira ancora bene. Gira ancora che è un piacere. Con 512 MB di RAM. Usciva con una sua versione di Ubuntu, ma c'era la possibilità di installarci su Debian, Gentoo, ho visto che stavano lavorando anche su OpenSUSE. Vabbè, c'è chi può, che c'è anche Puppy Linux, Buddy Linux, Body Linux, e c'era qualcos'altro anche in giro comunque. Vabbè, era un po' che era fuori, finito fuori produzione, sì, non era più in vendita. L'altra sera ho ritrovato sul sito di vendita europeo, che credo sia un negozio tedesco alla fine, che era tornato in vendita subito. Compra, compra, compra. Quindi se siete in cerca di un portatilino leggero, non esageratamente performante, che vi tenga la batteria per almeno tutto il giorno, con diciamo un netbook, 189 euro mi pare la versione con 3G. 189 euro, quindi vi portate a casa un 10 pollici 16 noni, sì. 1024x600 modificabile. Poi se vi volete metterci le mani, e faremo una puntata su questo, con, come diceva già lui, un processore free scale, per cui un ARM, un Cortex A8, unità di per la grafica 3D, 3D, okay. 4D, 5D, decoder video in hardware, per cui anche non è male, il 3G, come diceva l'uomo qua a fianco a me, sul sito europeo del Genesi, sullo store europeo, è ancora possibile trovarne a Cattateville, che è divertente, diciamo. Ma ce ne regalano uno dopo questo angolo pubblicitario? Sì, il suo. No, perché? No! Esattamente quello. Va bene, dovevamo chiudere con qualcos'altro? Un paio di notizie lampo. Sono stati pubblicati i video della PyCon US. Ci sono interventi interessanti che spaziano dal uso di Python nella didattica al... dettagli sul funzionamento del bytecode Python e tutto quanto. Andrai, il nostro commentatore andrà a vedere i video della PyCon. Sicuramente, così almeno posso esprimere il mio parere riguardo ad essi. Mi sembra giusto, perché lui commenta solo però si informa, perché non è che manda tutti così un po' a cagare senza... Lui manda a cagare a ragion veduta. Comunque sono un po' deluso perché non ha sempre mandato a cagare. Cioè, no, stasera è stato particolarmente buono. Deve essere stato cioccolato. Può essere, non sì. Dovete più dargliene. No, dopo diventa troppo buono. E l'altra notizia lampo, sulla quale torneremo probabilmente nella prossima puntata, sia Mozilla che Google stanno sviluppando dei nuovi motori di rendering web. E facendo l'uno un fork da Gecko e l'altro un fork di WebKit. Per il futuro del web si giocherà su questo, proseguendo la gara chi fa il numero di versioni più lunga. E quando sarà uscito qualcosa vi racconteremo come funzionano. Beh, nella prossima puntata credo che andremo un po' più nel dettaglio di questa cosa. Vi ricordo un attimo che su www.gl-como.it trovate tutte le puntate di Opencast Alpha, tutte e 37, mica paglia. E fammela mettere, cioè almeno stacca, così poi la sì, mettiamo. Sì, ma se uno sta ascoltando questa, adesso te la spiego, se uno sta ascoltando la registrazione di questa puntata vuol dire che l'ha scaricata dal sito. Non può essere un mio vicino che è attaccato col bicchiere al muro. Certo, vi ricordo di lasciarci dei commenti, dei pareri, dei soldi, degli insulti, dei soldi sempre sul sito. Sul sito basta che attaccate la banconota sullo schermo. Esatto. Oppure potete mandarci dei bitcoin. Esatto, li lasceremo che ci compriamo la droga. Esatto. Ma non penso che ne hai bisogno. Ecco. E niente, vi ricordo come ultima cosa che tutti i pezzi musicali che vi abbiamo fatto ascoltare questa sera sono pezzi in Creative Commons disponibili sull'internet, in particolare questi sono stati trovati sul sito www.jamendo.com, che è un sito tutti. Che noi consigliamo di brutto, cioè subito dopo la mattina prestissimo, prima cosa su glcomo.it per vedere se ci sono delle novità, cercare il nostro bellissimo snodo autostradale Friendica, dopodiché andrete subitissimo a cercare della musica decente su Jamendo. E direi che per questa sera è tutto, abbiamo raggiunto la venerabile quantità di minuti 54, per cui direi che per un paio di settimane, anche tre, potrete anche non ascoltarci più. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo con un ultimo pezzo